Rega, dove? Camera, infatti la modulazione è bassa. Ma c'è un microfono normale, cosa pretendi? Non pretendo nulla io sto dicendo solo com'è. Io non ne ho di pretese nei confronti degli altri, per carità. Ho fatto? No, l'ho venduto a Walter uno. Allora gli bici te lo fa pagare 80 euro. Ehi Antu, praticamente io l'ho venduto 40 euro, te lo dico pure. Ed era nuovo di zecca, non c'aveva un graffio. Attacca, non ti preoccupare, che è fuoco maneggiato. Andato! Lui! Io non ho uno, ne avevo due, Antu. No, uno ce l'ho. Sì. Andato! Ma infatti è quello il prezzo, guarda, me ne volevo dare 30, ma no, lasciami lì. Ho 40, ma lo sto tenendo. Più le spese di spedizione. Ma se lo fanno pagare perché è finale a mosse, te sanno che tutti se lo comprano, capito? Perché non distorci. Se tu gli dai l'entrata giusta va benissimo. E beh, quanto costa questa re? Guarda, come va? Alto, ma perché 747 100 watt da? E dove li hai mai visti tu 100 watt? Io ce l'ho, ne dà 70. E dipende da quanto gli dai, di entrata, claro. E quanto le dai? Quanto le devi dare? 5 watt le devi dare, quanto le devi dare? Da 5 a 10 watt le devi dare. No, 10 watt satura. Perché tu quando le dai 10 watt saturi. Io ne do 5, preferisco avere qualche watt in meno, ma non satura. Ok, ma se arriva a 100, magari saturando da te, magari lontanata non satura, capito? Ah, 100 watt non me li ha mai dati a me, assolutamente. Non me li ha mai dati, massimo 75-80, non me li ha mai dati, capito? Comunque sto usando un DAC con l'MB più 5, com'è Gianni? Buona, buona. Comunque ti dico una cosa, a me me li dà, a me me li dà però col magnum me li dà sino a 100, arriva. Ma di picco di modulazione? Quando modulo sì, sino a 100, arriva. Ma dico se modulando, perché il magno magari c'ha più picchi di modulazione. Non lo so, però vabbè, gli abbasso la potenza, lo faccio arrivare a 5 watt circa, 6 watt, e te li dà 100. Va con lo scala quando schiacci. Già, dipende da che strumento vai. Io ho la T230 e la Kenwood e non me li dà. Non me li dà 100 watt, ti ripeto, con 5 watt con l'airbag mi dà 75 watt, 70 watt, se fischio sarei anche 80, però sul parlato sono 70 watt, ed è più che sufficiente perché è un linearetto da 4 soldi, cos'è? Non va nuda, dritto e biudo, capito? Mentre invece col DAC l'avevo provato e... abbassando la potenza, ma era 80, però a 100 non l'ho mai visto. Strumento professionale della Kenwood, Vabbè, ti aiuta lo stesso. Vabbè, dai, io sto chiudendo, devo andare a portare il cane, ci sentiamo, ciao a tutti. Ciao Claudio, ciao. Claudio, un attimo. Avanti. No, Claudio c'è per caso in frequenza. E sta chiudendo, non so se ci sia ancora. Claudio, c'è... come si chiama? Ma non lo ricordo più. C'è Bracco che ti sta cercando. Claudio? Deve essere andato via, Bracco. Sei andato in questo momento, sta portando il cane giù. Mannaggia la miseria, proprio al momento che entro io questa ce n'è andato, è già due o tre volte cane. Ha detto che stava andando a portare il cane. Deve essere che come ha detto, ha fatto il passaggio, ha chiuso subito senza aspettare. Mi rientra. Dopo che porta il cane. Oh cappa, che c'è in frequenza a proposito? E allora, Luca. Sì, sono qua. C'è anche Azzardo, avanti Azzardo. Da fiocchio. C'è anche Natalino. Ah, c'è quel poco mai Natalino oppure c'è? E io. Rimettila la portata. Azzardo. problemi. Ma non c'è azzardo? Sì, li stiamo mettendo la portante a tutti. No, non fino a buccia. Ma chi è che sta mettendo la portante, bro? È quel figlio che li fa ancora. Falcone, in no, Luca, e poi? Azzardo, c'è azzardo, anche avanti azzardo. Giovanni doppio ru, Luca, Mattarino alfa 1 e Antonio riserva. Azzardo. E vabbè, continuiamo, là. Mattarino. Yeah. Sono qui, non c'è problema, che vi ascolto, dai. È entrato Bracco, salutalo. E Bracco chi? Bracco, Bracco, Bau Bau. Bracco, ciao Giovanni. Ciao Natali. Mi sembra che ti ho visto stamane da Roberto, mannaggia. Confermo c'è a proposito. Confermo? Sì. Perché è un confermo? Ma senti... Ma mica lo confondo con un altro, se rassomiglia comunque come nominativo. Ah, Pomponio, Pompelmo. Anzi, io lo confondo sempre, mi viene più facile. Pompelmo mi viene più facile, perché mi riempi la bocca, porca miseria. Quello è parente azzardo, se l'hai conosciuto azzardo. Te lo ricordi la Giova? Azzardo. Ricordo, no. E ha ricordato mio riserva. Vi ho detto che c'è un timpano spento, parlatevi piano, io non vi capisco anche se il segnale è forte. Ho detto amico di Antonio Riserva. Amico di Antonio Riserva, chi è? Antonio Riserva. Ai, Marco Conte. C'è Antonio Riserva. Ciao Marco, ma come l'ho deciso, Ma tu Antonio Riserva ti chiami? Sì. Ce l'ho io adesso, adesso lui non c'è, ma sono lui, ma non sei tu, sono tu il nominativo, ci sono io, dimmi. Io sono Pompelmo, stavo cercando Antonio Riserva. Tu hai detto che volevi metterlo dentro un apparato. Allora, segna RM Italy AD 203, Alfa Delta 203. E praticamente ti danno il circuito senza buccia esterna, con i cavi già pronti per l'alimentazione, l'ingresso, l'uscita, fatto apposta per essere messo dentro gli apparati. Ed è l'equivalente dell'RM203 alias 747. C'ha MOSFET, c'ha 4 MOSFET, i famosi MS1307. Comunque, come si chiamano? Quello che hai detto tu poc'anzi, MOSFET, sì, MOSFET. Vabbè, ciao a tutti, ciao. Ma domani che ve ne servo? No, presumo che sia per mettere qualche staffettina interna e reggerla. Certo, si vede un lato qua, solo un lato. Va bene, no, dico, anziché comprarlo con la buccia, di saldare roba, questo è pronto a metterlo dentro, è una cosa intelligente. Adesso vedo se si va. Comunque i componenti sembrano identici dentro al 203 che ho io, ciao. Allora, costa comunque da RM ES Radio Hotel, venditore ES Radio Hotel IT, su eBay, 40 euro più 8,50 l'espedizione. Abusivo e pirata, ecco. E anche Finocchio magari. Finocchio. Adesso scendo giù con il cane. Lasciate spazio per un passaggio all'altro che vi porto il portatile a vedere se mi ascoltate. Non fate come ieri, Natalino, Dubrofetta, cazzo lo mandavate entrare 5 minuti, cercavo di entrare. Ah, è vero, cazzo, non ci avevo pensato tanto. La prossima volta chiedo un consiglio a te così mi dai, mi illumini. Poi mettili anche 5 euro e mo che si pria le sigarette quel povero cane. Fate da bravi. Crede che lo temo io, adesso si scoprono gli altarini. Aspetti, tu più 1800 viene intorno alle 60 euro. Anzi, la Minox viene così, la più 1800 costa ancora di più. C'è la 1800, l'800 è quella più bassa, dai. Non so quanto sia, 1,70 mi pare. Ma solo lo stilo sta vendendo. Cavolo. È buono, se si trova una base per la macchina mia, cazzo, quella lì è bella l'antenna. Ma stavo vedendo su eBay. Ma forse sta facendo la cosa, forse sta facendo la lotteria, dai. Ma farà il prezzo finito quello. Ma è strano. Ah, aspetta, ma non ce n'è. Antenna Sigma. Non la vedo io. ce n'è una all'inizio, ma sono per ricambi, per ricambi originali, cioè praticamente quello che va attaccare alla capotta, e costa 14,50 euro più 7,50 euro. Luca, che accendi sigaria ne hai? Pronto? Già vado d'accordo domani, dai, non ho conto. Dimmi già. Ho detto se c'hai attacchi accendi sigari da dare. No, già, ma che è di Marina, ma è Bruisend, me l'aveva dato Luca. Tu Luca si era rotta addirittura, ma l'ha regalato lui. Costava un paio di euro da cinesi già. Ma non ho proprio l'acce di sigari, non l'attacco, quello che ci mette dentro l'acce di sigari, dai. Per prendere la corrente, vieni, che come vuoi che te lo dica, lo spinotto acce di sigari. Ah, dovrei averlo già, dovrei averlo, che cavolo l'ho messo. Te lo devo cercare, ce l'ho comunque, ne ho, però. Perché se no vado e me lo compro da fusare, devo comprare anche il filo. Così mi piatto l'apparato, quello che sono messo a usare, quello SOS in macchina, con l'antenna a fase magnetica. Sì, già, dovrei averlo, poi non lo so, adesso mi ha preso all'improvviso. Gianni, ma tu vuoi la femmina accendi sigari? No, è lo spirito che siete, al posto delle bananine devo mettere la tacca accendi sigari in questo apparato, per attaccarlo non la tacca accendi sigari, capito? Vabbè, lo spinotto maschio, dai. Esattamente, quello che c'ha il polo positivo sul piccolo, mi pare che sia. Esatto, quel pornografico. Adesso prendi per il culo, ma con il racconto, dalla prima stamattina l'ho piattato il microfono. Andù, ma chi è questo qua? Della PNC? Questa trova la completa l'antenna. Ah, infatti ma li ha strano. Qua io provvisoriamente avrei messo una PLC lì dalla 25. Stiamo bene, a posto di quella che c'è adesso. Ma i ricambi non li vendono singoli? Sì, da parte col filo tu. La parte c'è, 800, sì, come antenna ricambio originale per PLC 800, costa 14,50 euro più 7,50 euro, ti viene 18-22 euro la base, completa di gommino, di bullone e l'altro gommino che va sulla capotta. Tu ce l'hai tu il filo, il cavo con l'attacco, ce l'hai? Ce l'ho io, ti sto dicendo, il petto ce l'ho io, quel petto dove si avvita l'antenna ce l'ho io, nuovo a casa. Esatto, ce l'ho io, ti ho detto, nuovo. Niente, non voglio nulla, vieni ti rubiti, adesso lo cerco, perché ti ho detto che ce l'ho, però lo devo cercare. Mi vado 5 minuti e guardo se ce l'ho, vieni ti rubiti, pure avanti. Aspetta, ma se riesco a trovare questo coso a Gianni, dai, questo... lo spinotto, dai, diciamo, per la sindessiga. L'apparato in macchina per prendere l'alimentazione dalla sindessiga. Con le femmine per le banane. No, lui sicuramente ha il jack che va alla radio e poi le banane che lui attacca all'alimentatore, capito? Quindi gli serve il maschio accende sigaro, uno spezzoncino breve di cavo rosso nero e le femmine, tipo gli attacchi dell'alimentatore, capito? E però a casa poi bisogna vedere se lui ha una presa, se nell'alimentatore ha una presa tipo accende sigaro, metti che lo voglio usare casa macchina, no? Sì. A casa sì. Sì, è lo stesso che aveva il Maxcom 7, piccolo attrattorino. Comunque stavo guardando i dati di quelli neretti e stanno già cambiando le carte in tavola, quello che ha detto tutto nero. Allora 100 watt li dà, se gli dai 10 watt li dà 100, però stai ammazzando i finali e non esci di radio quasi. Adesso stanno scrivendo 65 watt effettivi per quello nero e anche quello senza il case, di picco 80 di picco, stanno già cambiando le carte in tavola, magari hanno cambiato anche il finale, chi lo sa? L'ho trovato, l'unica cosa che manca è la gomma che ci mette sotto per non graffiare la macchina, quella lì al limite te la becco con un pezzo di camera d'aria, cioè questo non è mai stato usato, praticamente c'avevo tutta l'antenna, poi lo stiro l'ho dato e niente, non so la gomma dove cazzo è finita, no? C'era tutto, perché era dentro la bustina. Adesso provo a guardare dove c'era questo pezzo qua, se lo trovo te lo do. Sì, hanno fatto varie versioni. Solo che te lo fanno pagare di più perché ci è. Per esempio, l'RM203 normale costa da Radio Hotel su eBay 53 più 8,50 di spedizione. Pensa, quando l'ho preso io era 40 euro più lo stesso 7-8 euro di spedizione. 40 euro solo. Adesso è arrivato a 53. Il 747 costava già all'epoca almeno 20 euro in più da internet. Ma tu, quello ti spiego cosa devo fare. Allora, il cavo che ho nell'apparato che voglio mettere in macchina è corto. Devo tagliarne un pezzo perché l'attacco, quello lì non si acciappa ma così tanto, perché quell'attacco, non so se mi spiego, quello che c'è al pochettino piccolino, non si trova, se gli altri che si trovano giocano e non vanno bene, quindi cosa faccio? Taglio il filo, li metto, termorestringente, lo allungo e lo faccio lungo il filo, il capo, e poi li metto l'attaccaccio di sigari, perché così almeno in macchina mi posso muovere. Se è corto cosa può? Io te lo mando. Questo qua, se ce l'ho io. Guarda, se lo manda già lì, lui mi conferma che è quella. No, è questa. No, è bene, questa è piatta, tu. Vabbè, c'è la forma, vai, abbiamo messo anche rondellone, sicuramente. Quella serve per fare il corpo all'antenna. Ma quell'abusivo di Marco non c'è, che lo devo sfottere. Marco, come? Sì che c'è. Ehi, Natali, già ho capito che sei riuscito a saldarlo, a trovare la capsula, ma io, a me viene la prima, cioè tre fili, uno massa, uno il PTP, uno la modulazione serve la capsula, alla prima io l'ho fatto, non dopo 24 ore di tentativi. Mi sembra che avete dato lo schema sbagliato, per forza, non ci riuscivo. Ho fatto alla prima, a modo mio, ho fatto stamattina, e come mai ci sono riuscito? E lui dice che lo schema gliel'abbiamo dato sbagliato, chissà cosa ha scritto lui, il geroglifico avrà scritto. Vabbè, comunque è importante che tu abbia risolto, dai. Sì, ma infatti anche qua, 2-3009 con lo stesso attacco, praticamente la KR5005 con lo stesso attacco, escludendo la ricezione. Un altro omologato Intec con lo stesso attacco, non è che si sbagliano. Cosa ti volevo dire comunque, tu? Che anche se fosse comunque 65 watt effettivi, quella geggio lì, è di lusso, perché se tu c'hai un baracchino a 4 watt, 4x4 16, 16x4, vabbè, fatti lo conto, 65 watt effettivi, li aumenti già di 2 santiaghi, è di lusso, per quel prezzo è di lusso. Io quello non l'ho letto. Ah, ecco perché quattro fori. Io no, pensavo a qualche staffettina interna, una staffettina che lo regge. Uno allora si deve mettere pure un altoparlante esterno, che palle. Poi dipende quanto spazio è nell'apparato, e se permette l'altoparlante ce lo lasci, ci aggiungi una stanfa, fissa tra qualche vite, c'era un break comunque avanti. Non c'è più. Eiaia. Va bene. Comunque Gianni, sì, 747, volendo li dà 100 watt, cioè se ne dai 10 ingresso li dà, però stai ammazzando i finali e magari satura, invece se ne dai la metà ti dà già quasi l'80-90% della potenza, in più non satura. Gianni sta cercando il pezzo qui. Breccese. Vai Giulio. Ciao Marco. Sì, io ho una lista io di 14 baracchini che sono tutti uguali, incominciando dal Superstar 6009. 14, una lista intera, e io ho già controllato anche al computer per vedere se effettivamente erano uguali, e sono uguali, tanto che incominciando dal Superstar 6009, X5000, KPD X5000, Kenwood TH9000 eccetera eccetera, 14 c'erano tutti uguali. Sì, sì, Hanover, Aquarius, KPO, Mass 5000, questo cosa vuol dire? Che è un apparecchio riuscito e che è stato commercializzato in tutto il mondo, compresa marcato Kenwood, cosa incredibile, in Russia esattamente, Russia era marcato Kenwood. È riuscito, anche se ha le sue pecche, però un bel apparecchio. Mi Luca ci stava facendo un pensierino, non ha deciso tra il 3009 e quello lì. Sì, infatti anche quello c'è Avanti Grande, poi c'è Aquario PX80, Anettone AT5555, Alfa 10 Max 1000, Sincro Impala, Top Gun Quad, Voyage BR9000, tutti uguali, sono tutti identici, ma cambia solamente la marca sulla carcassa della radio, però come cosa è uguale, li ho controllati e sono tutti uguali, identici. E vabbè, lo sappiamo, anzi lo sapevamo che ogni ditta si fa costruire la radiolina col suo nome nativo, col suo logo, è ovvio che sia così. Vabbè, dai, riprendi. Mi pare che dalla casa madre, credo, ne puoi chiedere minimo 100 pezzi e te lo puoi fare rimarcare come vuoi, tipo dollaro, che ne so, apparecchio Giulio Dollari, in ordine di 100, e te lo puoi rivendere col tuo nome, per dire. Sì, ma in effetti è così, e costano circa intorno ai 200, qualcuno magari 199, sai, varia a seconda del negozio dove compri. Però devo dire che sono molto molto belle, arrivano anche a 60 watt arrivano, a seconda della modalità in cui lo usi, per cui va bene, vanno bene, sono belle. Ah, dopo tutto c'era anche cosa, Antonio Barracuda c'era la Nissone, c'era lui, ma c'era già un paio d'anni e va molto ma molto bene. Stavo vero prima quando abitava nell'altra casa, adesso magari è un po' lontano, è mezzo in una volata, per cui arrivo un po' più basso, però come radio è ottimo. Vai Antonio, non c'è Antonio? Magari sto facendo altro. Che altro c'è qua? Luca ci dovrebbe essere. Luca? Oh, io sono a portare giù il cane, là. Se magari lasciate un po' di spazio, provo a entrare col portatile, se ce la faccio. Va bene, già, d'accordo. D'accordo. Poi tornando al discorso, Marco, visto che siamo solo noi due, secondo me piazzare il baracchino in macchina con la presa dell'accendino è un po' un rischio per la centralina. Io dico che si dovrebbe mettere un filo indipendente da tutto, direttamente dalla batteria alla radiolina, perché può essere pericoloso, soprattutto se metti il legnaretto. Eia. Diciamo, vabbè, la macchina nostra c'ha 20 anni, quindi centraline è ben poche, ce n'è proprio riciclato. Io ho provato a alimentare, per esempio, il baracchino alla accendisigari, il lineare con cavo diretto alla batteria, problema nessuno. Naturalmente la presa accendisigari c'ha 10 ampere massimo, però massimo e poi salta il fusibile. Meglio non metterci solo baracchini lì, che consumano meno. Certo che, anzi, se non ne metti niente è meglio. Colleghi tutto al cavo diretto. Se hai già messo un cavo diretto per il legnale, lo metti un pochino più grosso come filo e ci attacchi anche il baracchino. È più fluente e penso che vada anche meglio, oltretutto, e probabilmente sarà anche più silenzioso anziché subire tutte le interferenze magari dell'elettronica della macchina eccetera. Va bene, poi a riguardo della potenza, secondo i watt che gli dai, chiaramente ti dai i watt in uscita, però ci sta, più di quant'altro lo dire puoi dare, intanto si rovina la radio, per cui tanto vale dare una potenza di ingresso bassa per avere un'uscita chiara, perfetta, magari con qualche watt in meno. Ehi, che hai ripreso? Avanti. Prego. Avanti. Sono sempre io, amico, la lupo vecchio con l'antenna, con la numerante. Come mi sta percependo? Perché adesso l'ho cambiato di posizione, tanto. Ah, ciao Nicola, non ti stavo riconoscendo, 9 più 20, è segnale. Hai detto boomerang, giusto? Si conferma, me l'ha procurata Franco, l'ho montata in maniera provvisoria solo per soggiorno di casa, quindi in confronto al primo come mi scelta? Beh, qua è forte, 9 più 20 diciamo, rispetto alla distanza nostra non è fortissimo. Vediamo da Giulio com'è che è più lontano. Giulio? Non lo sento qua. Non lo sento, Marco. C'è la boomerang che ha messo, così hai detto Marco. Si ha messo la boomerang, mi ha messo un radialino. Se dalla parte mia o se dall'altra parte. Non lo sento assolutamente. Guarda, il problema è che non ho dovuto montare nel poggiolo di casa e praticamente dati proprio il palazzo, quello è il problema, capito? Ah, Nicola, una curiosità, è una boomerang diciamo caricata o è una boomerang full size? No, guarda, non mi fare queste domande un attimino perché non la conosco, e so che dai il radialino è una boomerang normale questa. Vediamo, la faccio più, dunque, lo stilo, tolto il radiale, lo stilo quanto è alto? 2,70 oppure 1,5 metri o meno? No, negativo, è abbastanza alto, qui 3 metri, dai. Sì, allora è una boomerang normale, non full size, non caricata. Però, caspita, per essere così vicini, vabbè, la risposta l'hai data tu, 9 più 20. Solo dovresti essere anche di più, più forte, però se sei circondato dai palazzi hai già risposto tu, dai. Caspita, ma a non arrivare nemmeno a Giulio. Giulio, praticamente lui è come se avesse una, come se fosse un baramobile, no? Però addirittura che non arrivi da te, caspita, non me l'aspettavo che non arrivasse lì. No, non arriva per niente qua, per niente. Per cui... se non si attrezza e mette antenna come si deve, non c'è niente da fare, perché se è circondato dai palazzi e poi se usa la boomerang può essere anche direttiva verso una parte e magari lui non la può nemmeno girare dall'altra per fare delle prove, ma non arriva, non c'è niente da fare, quindi stare lì, queste provettine così, queste sono provettine. Ci vuole antenna, Nico, metti antenna come si deve e così almeno ti posso ascoltare alla grande. Così in questo modo non arrivi proprio, è proprio niente. Vabbè, riprendi Marco. Vediamo se c'è Gianni, doppio run col portatile. Gianni ci sei? No, io sento bianco qua. Va bene, c'è un bel di gente, sono spariti tutti. Ok, dai, riprendete che qua c'è da fare. Chi c'è rimasto? Natalino, Luca, non mi viene il nome. Vabbè, allora anch'io chiudo allora. Comunque sono un contagio oggi a Sassari, sta andando bene la discesa, la curva sta andando bene, sono un contagio a Sassari, niente deceduti. Ci sentiamo allora, ciao Marco, stai tenendo, tanto Nicola non lo sento, per cui allora chiudo anch'io, ciao. Ciao Giulio, ciao, ci sentiamo. Io invece non mi sento tanto bene perché ho dormito male, sognato peggio, mi sono svegliato tutto scombussolato. Dai, alle prossime. Ok, ciao Marco, ciao. Azzardo, c'è qualcuno? È rimasto qualcuno qua? Gianni, Antonio, tutti i pariti c'è di lui. Fispunzio. Ui, Giovane Asci. Allora, buonasera. Aspetta, ho un messaggio un attimo, c'è il telefono lì. Vabbè, mandalo in carica che era raso scarico. Un consiglio, là. Mi ha rimasto, non so quello da darlo. Che era? Natalino. la risposta mia te l'ho già data lui, no? Io perché uso sempre questo? Quindi non c'è da discuterne. Lo so Marcoli, lo so, tutte le ragioni del mondo, ma anche questa non è male. Alla fine quella niente, questa molte funzioni, capito? Sì, sì, è bella anche quella, diciamo. Pensa che l'hanno chiamato quell'apparato l'erede del Pluto, anche se avevo detto andiamoci piano, però per chiamarlo l'erede del Pluto, poi sai, ha più watt di un superstar normale, e questo quanto credi che ne dia? Se riesci te ne dà 8 in AM, 25 in banda laterale, quello ne ha 40 mi pare, 40 FM e 40 banda laterale, 12 in AM. Un attimino, se non vi rispondo vuol dire che sto facendo qualcosa. Praticamente sto cucinando un po' di riso, là. Guarda che ti ho mandato la risposta, con chi sei? Volume basso. Ehi, ciao T, non sono molto brillante oggi. Marcoli, sei mezzo cadavere, hai dormito male, hai sognato brutto, cosa è successo? Ehi, malessere, un po' di malessere, ho dormito molto male, ho sognato peggio. E così, ho mangiato, però non mi sento niente bene. Ho capito. Un attimo, devo rispondere alla mia figlia, attimino. Ma tu cosa le consiglieresti a Luca? Anch'io non saprei, però cioè non mi sento di consigliarne uno e di escludere l'altro. Sono tutti e due buoni. Anche per me, solo che gli ho detto che io il Seminello non l'ho mai avuto, non lo so, ma credo che abbia la stessa scheda del 7009, dell'HR 5005, del 5550, un arco. Io gli ho semplicemente detto se piace come esco io, per dire, io questo qua gli ho fatto due modifiche stupide, gli ho fatto un po' l'LC e il VAT, mi hanno regolato, quindi è un pochino spinto, ma dipende anche molte volte dalla regolazione, dalla timbrica di radio, di voce, di uno è più portato dell'altro, capito? Allora Lu, ho risolto il problema, ho trovato la soluzione, tu li prendi tutti e due e così non rimani scontento. Uno o l'altro funzionerà bene per te. C'ho io Luca, che va bene ugualmente, è come quello di Tino. Ma guarda, quello che stai usando tu, ce l'ha sei? Io c'ho quello con 4-5, se per il capo. Ah, sì, con 4, con 3. Con 4, perché il mio non è Intec, però è uguale al tuo, là. Solo che io sto usando l'omologato. Vabbè, la scheda è la stessa, No, aspetti, tra i due, tra il 3009, tra quelli vostri state dicendo. Sì, Marco, tra il mio e il suo. Sì, identica, cambia il nome, ma è identico, proprio identico, cambia l'etichetta. Alle volte gli cambiano la serigrafia del frontalino, c'è una marca che ce l'ha di colore rosso, la serigrafia bruttissima poi, Solo con una differenza, mi sbaglio, non mi dovrei sbagliare, sia il numero del frequenzimetro che il numero dei canali con baccia di colore, al contrario del mio, uno è verde e l'altro è rosso. E anche il mio è così, è arancione, il display è... E i canali sono di un altro colore, verde. Allora è preciso identico al mio. E al mio pure. Una bomba. No, sai perché? Quello display blu alle volte, a seconda della luce, c'è un contrasto blando. Cioè, vedi questa pattina azzurrastra, non è ben contrastato quanto quello col display rosso. Col display LCD rosso. È una bomba, guarda, sentilo, caspita. Oh Marco, se l'ha venduto quello da 165 della Spagna, non c'è più. È chiuso perché vorrebbe aperto per amplificare di più. Gli ho attaccato l'MB più 4, mi sì. Tutti venduti li ha. Caspita, guarda, c'è l'altro dalla Spagna, 189 euro o 79 euro, una cosa del genere. E purtroppo, guarda, il 164 era un prezzaccio, Sì, scusate, io ero in contatto con uno che aveva questa rivendita di questa radio qua e mi faceva 100, non so se ce l'ho ancora, 160 euro, già espanso, già espanso e già aperto un pochino di LC dalla casa, Io vorrebbe aperto, perché chi... Io mi sono messo con cacciavite, però devi avere anche uno strumento, un rosmetro e vattimetro. Ti posso dire cosa ho toccato io per fare più radio? Lo so, purtroppo io non ho né schema né niente, non mi ha arrivato a toccarlo, da Gussi, perché non lo so dove è il trimmer della LC. Io te lo posso, ti posso dire così, i numeri che devi toccare, però poi devi regolarti un po' i watt, devi avere anche attaccato un rosmetro, perché poi magari scende appena di watt, però fa picchi di modulazione tipo da, cosa ti posso dire, da 2 a 10-15 watt. Già lo so, però va, non vedi no, che è meglio che non ci sia. Bene, bene, bene, ma io mi sono azzardato e poi sinceramente non me l'ho sentita di lasciarlo così e l'ho fatto controllare perché potrei compromettere altre cose, capito? Tanto è vero che io con questa radio qua adesso sto uscendo con i minimi, proprio il minimo del watt per non sfruttare i finali, capito? Quindi lo sto cercando di riservare una tariffa. Io pure uscirò così. Bene, bene, bene. Ma boh, Marco, dai, non rilancio il mic a te, io vado e faccio una bella luce, dai. Ero fuori sino a poc'anzi e mi devo dare una risciacquata. Bricchi? Cosa, Marco? Bricchi da bracco. Ah, beh, ho sentito Bricchi. Va bene, dai, niente, la tariffa, l'entrare, io sto andando via, dai, ci sentiamo più tardi. Io sto andando via, quindi la Semmo Verde, io me ne passo in QRT, ciao a tutti, da. Vabbè, non so chi c'è, anch'io sto andando via, Bracco, mi dispiace ma mi devo fare una bella doccia perché sto uscendo dal lavoro e mi voglio rinfrescare. Nel caso ci sentiamo più tardi, dai. Ciao a tutti, ciao Lucas, ci sì, ciao Marcolino, ci sì, ciao Natalino e eventuale sculture, ciao ciao. Sapere solo se c'era Claudio. A tu, perché adesso sei venuto, io me ne sto andando, se mi dai il tempo di fare la luce poi riprendo, dai. Mannaggia, va bene, dai, forse che puoi. Claudio c'è o no? Come sei così sparato oggi? Tu il radio si è sparato. Natalino è sparato. Sentiamo dopo, c'è una radio micidiale. Guarda che non sto scherzando, Bella, forte. Vabbè, sentiamo dopo, ciao. Non c'è rimasto nessuno. Avanti che c'è sul canale 10. Azzardo! Non c'è né azzardo né nessuno, questo è Bracco, chi sei? Giovanni la scimmia qua, dai. È un appetito, so che ti dica. Io sto aspettando che rientri Claudio, ma a quanto pare non è ancora rientrato, dai. Perché Claudio sta mangiando sicuramente, mi sta preparando la cena lo stesso. Ah, la pietra l'hai vista, ho capito. Figlia. E Azzardo, tu dove sei? Non c'è più quel 3.900, quello da 150 euro, 170 euro spedito, no, non c'è più, venduto. Adesso c'è 189 più 12, 200 euro. No, adesso vado domani e mi arrivo Gudorra. Aspetta un attimo, Antonio, c'è Antonio, 10 anni doppio rumo, sì, da casa li levo, Antonio. Avanti Gianni, io sì, Antonio non lo so. Io ti ascolto, oscillante, da 1 a 5. Aspetta, mi controllo il video, se no mi si attacca. Ti ascolta forte e chiaro, ha detto. Gianni, mi senti? Anche io ti ascolto, la segnale è oscillante 5-7. Invece l'ho sentito io adesso, hai visto? Bracco, lo senti a Gianni col portatile? Giovanni Bracco. Oh, ma è chiaro, non Gianni, chiamami allora. Giovanni, non Gianni, Gianni ce n'è un sacco e mi confondete le idee, cacchio. Comunque quell'amico di qua l'ho sentito appena, fallo venire avanti. L'hai copiato Giovanni Bracco? No, appena sul fondo sente la voce, ma dove sta modulando? Ho detto, da dove sta modulando? E io lo sento a tratti, boh. Chiedile a vedere se mi copia a me. Poco sul fondo ti copio, ma con quale segnale mi stai copiando? Sì, ho capito che c'è un portatile, l'ho capito, però a momenti ti copia, a momenti no, Adesso in questo passaggio che hai fatto, un attimino ti ho copiato, poi si è calato di nuovo. E si vede che ti stai spostando. No, in questo passaggio non ti ho copiato. A proposito, se qualcuno, ma adesso magari questo canale non c'è quasi nessuno. No, Luigi, c'ho un portatile da 5 watt in vendita, se interessa, di quelli palmari, ma grosso però, E allora, non c'è nessuno, e come mai? Caleghissimo, boh. E chi sei, vaffanà? Che suga! Dai, mamma mia, dai, mamma mia, dai! Mi hai comandato, mio! Perché, fagiani, perché? No, è azzardo! Perché mi parlate sopra? Perché? Ma lo senti a Gianni? No, mi sembra Vigiani. No. C'è azzardo, anche azzardo, ci sei? No, io ci sono, ma che dipende da chi ti rivolgi. Io che cosa? Chiamami Bracco, se non capisco nulla. Ciao, a più tardi. Ciao. Ciao, genio. Sì, già, poi a posto d'ora poi arriviamo, non esagerare, là. Ciao, e vabbè, poi dalla zona, là. Siamo la zona lì. Comunque portatile. Vabbè, io sono io. Vabbè, siamo vicini, lo sai voi già. Mi sa che ha chiuso un genio. Sto perdendo già, Ma che è? Quello in valigetta? Beh, io vado in correttivo ora, Ok, Giovanni Bracco, buon correttivo, buona cena, ciao. Sì, adesso sì. Che è meglio. Azzardo. Nessuno, sti chiusi. Ho sentito solo il via Bonolo, ma poi è sparito. Ero al telefono, Senti a Gianni, ma. Gianni c'è, aspetta che tolgo lo squelch. Gianni, arrivi Santiago 5. Santiago 5 oscillante. Mi copi? Ehi, Lu, ti faccio un esempio, a te quanto ti arriva? Di smitter. Più oscillante, 3-5-1, a 7 è arrivato anche. Tu sei più favorevole anche per quella zona, Che perché? Stavo guardando su eBay, In effetti non lo vedo l'annuncio, deve averle finiti. Ce li ha quell'altro spagnolo, 0185 o 189, non ho capito la differenza, ne ha due. C'ha due inserzioni, una che costa 185 e una 189, ed è lo stesso, identico apparato. Non ho capito, scusa. Nulla. C'ha due inserzioni quello spagnolo. In una inserzione è 3.985 euro, nell'altra è 189. E spiccioli, non ho capito la differenza, è lo stesso apparato. L'altro era 185-180. Prova. E lo frillante se il 5-7. Marco, lo vuoi finocchietti? Lo vuoi? Tanto già se vuoi finocchietti. Sì, a me piacciono i finocchietti, anche i finocchioni. Tutti i bicchieri da Ugani. Guarda questo ladro, Luca. Superstar 3.900, quasi 290 euro, ma non ti nandi. Lo so. Vabbè. Dunque questo qua funziona bene il paracchino. L'unico problema è lo Smith che sta andando male. Non so cosa abbia a capo, ma veramente il blu sta rompendo. Aspetta, stavo notando quello da 189 della Spagna, no, nuovo, osservato da 31 utenti, cioè ci sono 31 persone che stanno tenendo d'occhio l'annuncio, vedrai che li venderà tutti entro breve. Beh, alla fine l'ultimo apparecchio è bellino, là, è bellino come apparecchio. Allora ne ha 18 disponibili ancora, quantità rimasta 18 disponibili. Ho visto, la vendita è abbastanza alta. Ma Gianni c'è ancora? Gianni? Ah, poi una domanda, lui, alla fine comunque tu non lo volevi il Superstar in quanto omologato, tu lo volevi molti canale, no? Certo che sì. No, perché volendo c'è anche dall'Italia, 240 canali lo trovi dall'Italia, tale Radio Smitter. Guarda che Eugenio, quando lo senti chiediglielo, Eugenio l'ha comprato da Radio Smitter su eBay, in Italia. Italia. E presumo sia la versione nuova, quella in origine omologata, però ampliata di canali, eccetera. Chi è? Gianni, l'avevo già detto già. Fatto che se ne ricorderà, che l'hai dato il 3009. Anche Natalino così me l'ha detto scherzando, e io gli ho detto: ma guarda che ce n'è, quanti ne vuoi su internet, cioè se ti piace lo prendi, se no è inutile chiederlo a me, cioè io alla fine avrei dovuto venderlo come usato il mio, perché è usato, e poi ricomprarmelo come nuovo, e che senso avrebbe? No, che lo davo no, io magari l'ho detto scherzando, sì, lì il filtro TV in quello col display rosso è partito, l'ho dovuto bypassare, colpa del cavo grosso che fletteva e ha fatto un casino. Però no, che lo dà, no, non ho firmato nulla e che ero obbligato a darlo, ci mancherebbe, l'ho detto scherzando. Oh, non lo sento più lui, non lo so se sta parlando, ho aperto tutto lo squelcio ma sento il correme, il soffio di fondo, dai. Chi è che fischia? Sta innescando. Fischio continuo, fischio, innesco continuo, non si sente la voce. Sì, adesso sì, probabilmente lì c'avevi un rientro di RF. Voce ricapero, parla vicino al mic. Cioè il segnale era 8,5 con quello, 8,5 pieno, però era un innesco unico. Adesso 6,8, abbondante, però la radio è pulita. Vabbè Luda, io qua lascio perché sono tutto, non lo so, la pancia, lo stomaco, sto messo male su. Mi faccio un caffè per vedere se mi rimette in come Dio comanda. Vai Luca, ciao a tutti, ciao. Ciao Riccardi, ciao ciao ciao. Tutti morti, ciao Riccardo, tutti morti. Sono spariti tutti. Vabbè, ciao ciao ciao, rimanga all'ascolto, ciao. Aspetta, piuttosto, vediamo se c'è ancora l'ascolto. Il vicino di casa, non mi viene il nominativo. Mannaggia. Lupo Grigio, Nicola Lupo Grigio, sei all'ascolto ancora? Anzi Ricca, prima era così, ma adesso Lupo Grigio ha messo una boomerang sul terrazzino, quindi lui modula al caldo adesso, però i risultati non sono quelli sperati. Purtroppo arriva, tra virgolette, solo 9 più 20 a casa, no? Però lui l'ha detto che è circondato dai palazzi, cioè lui è dentro una conca, no? L'antenna è più in basso e tutti i palazzi intorno che lo chiudono. Ecco perché più di tanto non rende. Ci vorrebbe l'antenna sul tetto, ma lui adesso non può o non vuole. I motivi sono personali, non si sa quali siano. Chi c'è qua? Brecco. Ciao Robè, vieni avanti. Ma c'è Riccardo che sta parlando comunque. Sì, sì, lo sento, sta parlando con me. Gli altri sono tutti spariti. Vabbè, Gianni era col portatile in strada. Luca forse ha sentato. Lupo Grigio non risponde. Peraltro Lupo Grigio ha messo una boomerang full size al terrazzino, però non riesce a uscire da quella conca circondata dai palazzi. A me arriva 9 più 20. Guarda, mi aspettavo almeno un 9 più 25, almeno, però è troppo schermato. Vai, Robè. Ok, ciao Riccardo, ben sentito, ciao Marco. Fammelo sentire al pubblico quanto arriva da me. Credo che abbia chiuso, però l'ho chiamato, non ha risposto. Credo che sia l'antenna di Franco, la boomerang di Franco, che è una boomerang full size, per fortuna, però non ha cambiato molto il risultato per gli altri. Per me, vabbè, è di lusso, 9 più 20, capirai. Però già Giulio non lo sente, ma che te devo dire, poi magari l'avrate moralizzato la cosa. Vabbè, dai, vediamo un pochettino, voglio sentire anche io, non è detto che deve arrivare da tutte le parti, l'importante è che si faccia sentire almeno dentro città. Guarda, mi ricordo una cosa analoga, Robè. Io quando ero in Viale Mameli, quando abitavo in Viale Mameli, no? E la casa è bassa, avevo una Grand Plain, un quarto d'onda, no? Non caricata, però era così bassa rispetto a tutti gli altri palazzi che anche lì mi dicevano: non è possibile che tu sia in Viale Mameli, sei troppo basso, non è possibile, non è possibile. Ho detto: ma balle, vi ho detto che sono circondato dai palazzi, non è che sto dicendo balle. Praticamente è come se fossi in macchina, era come se fossi in macchina. Adesso invece in via Nizza, a parte che la via è molto più in alto, il palazzo è, fai tre piani più il rialzato, più il tetto, e quindi l'antenna è una 5 ottavi sul tetto rispetto a quando ero in Viale Mameli, c'è un abisso, ma un abisso veramente, un abisso, tipo Fossa delle Marianne. Aspetta, saluta Riccardo della Matrix. C'è qualche donato per qua su 10, avanti, chi vuole entrare? Che ora è? Io per me già, magari stanno mangiando tutti, poi rientrerà qualcuno. Vabbè, io vado a fare il caffè, vediamo se mi tira un po' su, che oggi è giornata brutta. E ti lascio in compagnia di Riccardo, poi qualcuno entrerà, dai. Ogni tanto ha breccato anche Bracco, fino a mezz'oretta fa, ok? Dai, ciao Robè, a dopo, ciao. Hai una domanda, Bracco ti arriva più forte o meno forte di me? No, meno, Bracco 9 più 20, tu sei, fammi guardare, sempre con questo smittere sommario, vai. Hola, 1, 2, 3, prova radio. E 9 più 25 è tendente a 9,30, sei come Claudio, diciamo, dai. Siamo lì, dovrei vedere i due segnali, poi bisogna vedere i fatti. Comunque fai 9 più 30, dai. Tu da me invece c'è 9 più 30 spaccato. Io sto usando 3 watt, cioè 4 più il filtro mi ruba un watt, no? Quindi 3 watt, poi 50 metri di cavo ne usciranno 2 di watt, già lo sai. Poi quando attacchi arrivi a 9 più 40, che è tantissimo, non se ne andiamo. Ok, Riccardino, adesso aspettiamo un pochettino che quando piatta l'antenna schicheggia forte, come si dice in sassarese. Lo capisci il sassarese, Riccardo? Diciamo schicchieggia vuol dire che tiri forte. Vabbè, quando metti la mano la musica cambia totalmente, è tutto un altro tipo di antenna, un guadagno esorbitante rispetto a quella che stai utilizzando. Cioè quella che c'hai e rispetto alla mantova è un decimo, a parte che l'antenna è molto più grande, la mantova c'ha una radiazione superiore, eccetera. Avrai dei grandissimi miglioramenti, ma spettacolari. Ciao Robè. Chi sei? Ciao Alonso, ciao anche Riccardo. Io a terra mi sta arrivando sentire 8:30, Riccardo. Ok, ciao Robè, sono il primo, mi sto chiudendo, che è un po' di ascolto e così via. Ciao ciao. Sì, però non ho capito chi sei. Ciao, ben sentito, ma non ho capito chi sei. Marino Roberto, ciao. Ciao Marino, scusa, no, ti stavo confondendo con un'altra persona, siccome ieri è entrato uno nuovo che si chiama Mandarino, non mi ricordo il nominativo, Mario Mandarino, sembrava la sua modulazione però un po' più amplificata, dai, ben sentito Marino, dai. C'è Riccardino, lo ascolti comunque? Sì, abbastanza bene, un radio 8 e mezzo, ma come segnale, un radio 5 perfetta, bella chiara, limpida, poi il signorino è bello, ben esperto, molto bravo, eh? Ok, complimenti anche al padre. Ok, vabbè, riprendi, faccio chiudo perché mi stavo chiamando e io stavo spazzolando e ti ho sentito, ok. Ciao Roberto, a domani, ciao. Ciao, ben sentito Marino. C'era anche Marco, forse se non si è spostato, te lo rilascio per i saluti. Saluta Marco, se ci siamo. Ciao Marino, dai, ben sentito. Sì, all'inizio appena sei entrato eri molto cupo, rimbombante, non si capiva, cioè io ti ho riconosciuto ma non si capiva bene quello che dicevi. Quando parli più piano è più capibile, dai. Ciao Marino, buona serata, buon tutto. Ciao Marco, ben sentito pure per te, dai. Ok, ciao ciao. Ok, ciao, grazie Riccardino, ciao ciao, riprende Roberto, ciao. No, Marino, che arriva oltre 9 più 15 qua, la radio è molto forte, forse pure troppo amplificata, il segnale è ottimo comunque. Ok, ciao Marino, buon tutto, buona carica se devi farla. Adesso lasciamo un secondino di bianco, se nel frattempo vuole entrare qualcuno, se no tu prendi tu Riccardo. Ehi, non è entrato nessuno. Una domanda, Eugenio è entrato stasera? No, diciamo un microfono discreto, dai, amplificato, va bene. Nell'ordine del prezzo che costa va più che bene, dai, ce l'ho io l'MP più 5, ce l'ho più 4. Diciamo va bene, è un microfono amplificato, decente, più che buono, dai. Ma nuovo usato? €50-60. E cacchio, non è poco, no? Aggiungi qualcosa e te lo compri, no? Costerà una sessantina di euro, 60-70 euro penso che costi, non penso che costi più di tanto, è un microfono economico, con 50 euro, diciamo 50, domani lo trovi vecchio, come Mario un po' rovinato esteticamente, ma trovi anche un MC60 sui 60 euro, ma stiamo parlando di microfono, di un apparato di altissimo livello, non certo un baracchino, però diciamo se vuoi ascoltare, per farti sentire c'è anche le MB più 4 che sono uguali, il 5 c'ha soltanto il più controllo di tono, ti puoi dare un po' di tonalità e lo strumentino che ti dà la modulazione, i picchi di modulazione, diciamo io non lo pagherei più di €40, ma deve essere fiammante. Guarda, quando ho 5 minuti di tempo ti sistemo il TAN, è quello che mi hai dato, quello il plus, quello è il plus, sai, quello è un grande microfono, quello è sistemato, altro che ZG, ti è presente lo ZG, è la coppia povera del Turner, come estetica si assomigliano, ma non certo come capsula microfonica e come circuito di amplificazione, è un microfono economico, diciamo, per farsi sentire più forte, ma non c'ha niente a che vedere col Turner. Marco, ci sei ancora? Aspetta un attimino in bianco per me, scusatemi un attimo. Rieccomi. C'è qualcuno ancora? Riccardo, mi hai detto, non ho capito se sei con la Gran Premio o sei in macchina. No, no, già sta andando bene. C'è un pochettino di QRM, diciamo la radio è quasi 5, dai, comunque è chiara, dai, da 4 a 5, va, il segnale è 9 qua. Dove la tua nonna? Sto benissimo, per tutta quella zona lì è la zona sua più forte, dove va più forte di tutti perché proprio non c'è nessun ostacolo ed è molto in alto, dai. E non c'è neanche nessuno dalla parte di Alghero, quella zona lì è completamente aperta, anche io sono aperto ma lui è un po' più aperto di me, io penso che ci arrivi all'Argentina, magari lui arriva più forte e arrivo un po' meno forte, ma visto che Alghero arrivo più o meno come lui, un po' più basso, dovrebbe, sì, avreste dovuto ascoltare anche me, magari era un po' più difficoltoso per quelli della zona, diciamo, di lì punti, quelle zone lì del monte basso, magari per Alghero non è che siano molto appesi. Ehi, e ha detto tu di microfoni cosa ci avete da tavolo? Ne avete qualcuno oltre il Turner? microfoni di Dattamo ne avrò una quindicina e da Palmo anche di più, dai. E ce ne ho diversi, tantissimi, dai.